Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo alle amarezze, che bellezza quando rimi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi mi scatena un'emozione, e la mente vola adesso quel pianone, dove la volante di calcio ad un pallone, con gli amici a perdichiato in libertà. E buongiorno a tutti, bentrovati a una nuova puntata di Caffè e Paglia qui a Radio Città Fujiko, il contenitore sportivo del lunedì mattina dalle 10.30 circa fino alle 12.30 in compagnia Mingo da questa parte del vetro, nel salotto buono della città, insieme ai conduttori che oggi puntuali si sono presentati qui nel nostro studio, perché insomma il clima è quello giusto, il clima è quello giusto, vero Simone? Raga, voglio lo scudo. Basta, solo okay. Quello. Tutto quello che va sotto lo scudo è una delusione. Vabbè, delusione no, però voglio lo scudo. Okay. Oggi per dare l'imprinting alla puntata. L'imprinting alla puntata è questo. Giorno. Ovviamente stiamo parlando del Super Bologna che vince anche a Udine. 3-0, cioè una roba che non si vedeva da anni. Poi a Udine, capito? A Udine, proprio lì, in quel luogo lì. Insomma, una cosa strana. Comunque c'è la stella della trasmissione che immagino abbia seguito la partita. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Oh, io l'ho seguita e devo dire ho fatto una cosa bellissima, cioè non sono andato a Udine. Udine è il campo della Serie A in cui ho la media punti più bassa. Ah, ok. Se io in 3 uscite a Udine ho raggranellato 0 punti. Ah, quindi adesso quando giochiamo a Udine io mi sto a casa. Mi sembra un'ottima scelta tattica. Vado così. Utenie, bevo una cioè faccio le mie cose ma lontano da Udine. Lontano da Udine, mi sembra che abbia portato bene questa tua scelta. Un Bologna che ci buttiamo subito dentro al tema di giornata, al primo tema di giornata, ovviamente è la partita del Bologna, un Bologna che comunque arriva con tanti infortunati, con alcuni che devono preservarsi per la Coppa, perché giovedì ci sarà la Coppa, gioca a Udine, in una squadra che abbiamo detto essere abbastanza indecifrabile, sia per la difficoltà dei nomi spesso presenti. Per gli accenti nei nomi, accenti, detto, soprattutto dei nomi, e poi perché è una squadra che fa che sta facendo belle alternando belle prestazioni a partite anche abbastanza insomma, problematiche. Per fortuna becchiamo una di queste in questo caso, e dopo un primo tempo non brillante, il secondo tempo invece fa venire fuori la squadra con anche il goleador che non ti aspetti. Oh, davvero un grandissimo triestino a Udine. Perché questa è la cifra del Novecento, la doppietta di Tommaso Pobega. Ne parlavamo in riunione di redazione. Se prima del fischio d'inizio in tutto il mondo pochissimi avrebbero detto il Bologna va a Udine e vince 3-0, alla fine del primo tempo nessuno in tutto il mondo avrebbe detto il Bologna la vince 3-0, perché sembrava una partita con una grande X che flottava nei cieli tipo bat segnale sopra la Blue Energy già Dacia Arena, già prima. Già tornati i fantasmi, perché il Bologna Udine non ce la fa mai, sempre un po' stick. Poi che succede però? Che un tiro dello stesso Pobega destinato ad Alfa Centauri, che sarebbe arrivato su Alfa Centauri, e invece no, tocca, bozza contro il braccio e quindi il rigore, che poi tu magari lo sbagli, ok? Però è il segnale che forse cambia qualcosa. Questo poteva essere l'anno buono. Però adesso tra il serio e il faceto, in questo caso il serissimo, io sono convinto che il Bologna non è in lotta per lo scudetto, ma è proprio la favorita per lo scudetto. No, addirittura, no. Mi sembra. Posso spiegare. Se lo spieghi io poi sono più tranquillo. Posso spiegare, cerchiamo di rimanere lucidi. I motivi sono divisi in due categorie, macro e micro. Partiamo dai macro. In questo momento il Bologna, proprietà, direttore sportivo e allenatore, migliore d'Italia. Su questo penso che no, possiamo essere d'accordo, no? Su linee generali. Andiamo al micro. Il Bologna in questo momento ha il migliore impianto di gioco d'Italia, il più riconoscibile, il più europeo se vogliamo, perché alcuni dettami sono proprio delle squadre europee recenti, quindi pressing di quelli che ti si mangia, e andate a vedere i gol insomma che fa Pobega, sono fatti così, sono fatti di una riaggressione quasi feroce. Sì, con Okoye che ci mette del suo, okay, perché decide di soffrire, far soffrire la sua difesa al di là del più, insomma, questo è un po' frutto della costruzione dal basso, insomma, di questa. Che non è responsabilità tua, però. La tua responsabilità è andare a fargli un pressing fenomenale e ci riesci. Il Bologna, ripeto, è un mesetto ormai che giriamo intorno a questo discorso qua. E il Bologna ha una fase offensiva davvero clamorosa, perché è imprevedibile. È imprevedibile nei movimenti, nelle rotazioni, negli uomini che andranno a Cuba. Oggi è toccato a Pobega, che è un nostro feticcio, un nostro vecchio feticcio, ricordiamo, però Pobega che fa doppietta, credo non l'abbia fatta mai nemmeno negli esordienti, insomma, nemmeno negli allievi regionali abbiamo fatto. Neanche Pastore ha delle statistiche su doppiette di Pobega. Voglio dire, ripeto, il rettangolo verde, a differenza nostra che diciamo un sacco di cazzate, ma il rettangolo verde invece tende a dirti sempre la verità. E la verità è che il Bologna ha il miglior impianto di gioco d'Italia in questo momento. È più rodato, è più moderno. Un'altra cosa importante, ormai si è creato un gruppo di giocatori stabili, una decina circa, che stanno insieme da tanti anni qua a Bologna. Questo fa sì che loro sono entrati, parlo come gruppo, nel prime di questo gruppo qua. Cioè è adesso che questo gruppo ti può dare il massimo di quello che può. E lo sta dando, perché si trovano a memoria, si trovano, insomma, nei movimenti, nelle scalate. Chiunque entra gioca bene, anche qui Italiano è bravissimo. E tiene, riesce a tenere l'attenzione dei giocatori giusta a livello, chiunque, non ci sono titolari e riserve, no? Sì, infatti è vero, quando uno dice mancavano 6 titolari, in realtà è una squadra che ha pochi titolari fissi. Avevamo detto che giocavano Freuler e altri 10, adesso non c'è più neanche Freuler, vabbè, perché è fortunato, e quindi il diciamo, la formazione è sicuramente ampia ed è, credo, una delle capacità più una delle cose in cui riesce meglio Italiano è proprio quella di riuscire a tenere il gruppo molto attivo. Prima dell'inizio della partita, vedendo la formazione, gli 11 di partenza, c'erano un po' di mugugni tra i tifosi del Bologna, e il primo tempo non particolarmente entusiasmante ha fatto sì che anche molti di quelli che erano con me si focalizzassero sulle prestazioni individuali di quelli che avevano qualcosa da dimostrare, diciamo. Tipo, ma quanti minuti può giocare in Serie A De Silvestri? Oppure Fabian troverà mai un suo posto nel mondo in giro per il campo? Su Fabian siamo arrivati a una conclusione: potrebbe diventare un destro del 4-4-2 in un'altra squadra, forse anche in un altro campionato. E a Bologna deve lavorare sulla sua duttilità, cioè fare tante cose nel modo più sufficiente possibile. E sufficiente lo dico in accezione scolastica, cioè arrivando al 6. Sì, questo è quello che può fare Fabian. Purtroppo non ha avuto, è uno dei pochi che non ha avuto una crescita, perché in realtà è qua da parecchio tempo. C'era Motta ancora quando con Fabian, forse il miglior Fabian è stato proprio quello. Dopo non ha avuto una crescita continua. È vero che il suo essere duttile nasconde anche il fatto che non è fortissimo in nessun ruolo. C'è sempre sta cosa con i giocatori che o è veramente o è Kimmich che gioca tipo il miglior centrocampista e il miglior terzino contemporaneamente. Ecco, ma deve essere un giocatore come Kimmich. Sono pochi quelli che possono permettersi di essere duttili e essere forti. Voglio dire una cosa: non vi siete scomposti quando ho detto che siete, secondo me, i favoriti, quando ho spiegato? Non vi siete scomposti? No, ha un senso logico quello che tu dici. Io non ricordavo dove avevo messo le chiavi, le ho cercate un attimo, però a parte questo non vedo dei fenomeni. Cioè, la roba che mi fa pensare che andando avanti nel corso della stagione il Bologna si affermerà facendo quello che sa fare, non cose strane, ma quello che sa fare, cioè giocare a pallone, è che non vedo dei fenomeni in giro, indipendentemente da come finisce a maggio. Ma infatti il mio ragionamento si basava anche su questo: non è un campionato clamoroso e soprattutto non c'è una dittatrice che sta spaccando tutto. E il Napoli l'avete già maltrattato, e con la Roma adesso, lo so, ci dovrete giocare, però è quello che dico io. Abbiamo perso la prima. Avete perso la prima contro la Roma. Alla prima, che non fa mai testo la prima partita di campionato, è ancora agosto quando si gioca la prima. Ripeto, io non esagero, sono convinto che il Bologna ad oggi sia la migliore, perché non è la squadra più forte d'Italia, ma è la squadra migliore d'Italia, che sono due cose molto molto molto diverse, anche se sembrano simili. Certo, c'è la Roma di Gasperini che è tosta, anche perché quella è una bella carognetta di allenatore, e per vincere a Roma devi essere una carogna di allenatore. Però come dice appunto Fio, non c'è nessuno che te le dà a te Bologna, anzi sei tu che ne puoi dare tante a tantissimi. Quindi ci sono più squadre quest'anno che possono giocarsi, è un campionato attualmente molto molto equilibrato, perché lo stesso Milan che ha solo il campionato non puoi toglierlo dalla corsa allo scudetto. Il Milan ha battuto tutte quelle forti, tutte quelle che sono lì, con se sono cinque squadre in questo momento in classifica, il Milan le ha battute tutte e quattro, cioè l'altra è se stessa, quindi non poteva batterla, però ha battuto il Napoli, ha battuto la Roma, ha battuto il Bologna e ha battuto l'Inter ieri, quindi le ha battute tutte e quattro e non ha nessuna coppa, quindi è ovvio che è una squadra che dirà la sua, diciamo, fino alla fine del campionato. Però il Bologna in questo momento è una di quelle cinque che può giocarsela, nessuna sembra destinata a ammazzare il campionato, però insomma è ovvio che siamo, è vero, le castagne sono quasi finite, quindi comunque esatto. La classifica è classifica, però questo è. E la classifica espansa a mo' di tabellino ti racconta anche che hai la seconda migliore difesa del campionato e il secondo migliore attacco. Oh, ecco, bravo Fio, volevo arrivare lì. Ripeto, il mio è un discorso che ha delle fondamenta di cemento, non è campato per aria. Ripeto, se tu c'hai il top del top del top sia dietro la scrivania che in panchina e c'hai un gioco oggettivamente molto bello, molto fluido, e i giocatori sembrano essere appunto nel periodo storico per loro migliore, gruppo solido che dura da anni, il campionato è quello che è, non ci sono grosse squadre, ci devi provare quest'anno. Non è un caso, non è un caso che chi per mestiere fa queste cose ha dimezzato la quota scudetto, esatto, del Bologna, esatto, esatto. Cioè i bookmaker, quelli che danno le quote, il Bologna è passato da 75 a 35 in alcune situazioni. Quindi, infatti è sbagliato, mi dovevo ricordare la settimana scorsa, mannaggia. Dovevamo farlo, sì, quella l'abbiamo sbagliato. Ascoltatori, cazzeggiate responsabilmente, cioè se volete farne un lavoro c'è il tennis per quello, ok? Non lo sfioriamo neanche. Beh, abbiamo vinto la coppa, terza avete coppa del, abbiamo noi certo, italiani, non senti questo spirito? Grazie, anche tu l'hai vinta. A Bologna, nella città in cui tu abiti, non si può, tre volte consecutive. È uno strazio, guarda, cioè, tu non hai capito che strazio che può essere, dovunque sui social, un trionfo, ma come cazzo ha vinto? È vero? Non so che abbiamo vinto. È vero, non sono fake news, Simone, non sono fake news. Quando finisce se dà dell'ora del tennis? Se già non la faccio più. Appena iniziato. Comunque ieri, oltre che di tennis, si parlava anche della maglia color Tiffany del Bologna, che sembra a tutti sempre più bella. Ma non è bella. Ora, se sta andando bene, ok? Perché il Bologna sta volando. Però, raga, non si può legare col pigiamino, però. Ah, e l'ultimo punto... Che è un po' una maglia da portiere, secondo me, quella lì. Se c'hai 7 anni, no? Se sei un portiere di 7 anni, al mio piccolo piace stare in porta, quindi adesso glielo consiglio. Infatti me l'ha chiesto la maestra di Scoruspi. Ok, volevo dire un'altra cosa, un altro punto che forse è più importante, su cui si basa il mio ragionamento per cui do il Bologna come in questo momento la favorita, è la fortuna del sindaco. non voglio andare nell'esoterismo, ok? Però se ci sta un sindaco fortunato nella storia di sta nazione, ditemene uno più fortunato di Mattarella. Perché se tu apri a metà una città, rendendo impossibile l'usufrutto stesso della città, il lavoro di alcuni amici, tipo il nostro Fio, mandando in merda centinaia di attività commerciali, ma non i titolari delle mura all'interno delle attività commerciali stesse, ok? Cioè se tu riesci, a fatto odiare un sacco di gente, perché ieri ho sentito pure i turisti che camminavano per la città lamentarsi del fatto che non era possibile nemmeno camminare a piedi, beh, qualsiasi altro cazzo di sindaco sarebbe già in mezzo a un mare di guai, ma il vecchio pane circensi ancora va, e quindi serve... Quindi capita sta roba in mezzo. Ma sono sicuro, questo c'ha talmente culo che il Bologna mi ha scritto per davvero. Te lo dico io. Beh, io sarei d'accordo. Ci segue sempre il sindaco. Lo salutiamo. Ciao Matthew, se ci ascolti probabilmente no, però ciao Matthew. Va bene, questo è. Vabbè, aspettiamo solo quel momento. E poi sarà una gincana bellissima per festeggiare lo scudetto. Napoleone se li sceglieva fortunati in generale. Okay? Era quello, sì, è vero. Il discorso l'avevamo già fatto. Torniamo però al Bologna, che appunto è favorito, ma solo per merito, nel senso che sta giocando giocando veramente bene. Sta giocando qualcosa, si è unito un po', adesso stiamo parlando delle ultime due partite che sono state sì importanti e con una pausa in mezzo, che questa è l'altra cosa interessante, no? Il Bologna dopo Napoli è carico e però c'è la pausa con il nazionale in cui ti si infortuna pure il giocatore che in quel momento era il più in forma della squadra, che è Cambiaghi, quindi insomma con questo torni e sei ancora in quella situazione. Ricorda in queste due partite, mi ricorda un po' il Bologna di Motta, quello che il primo tempo traccheggiava e tu sapevi che nel secondo tempo Motta avrebbe fatto due cambi, avendo tendenzialmente fatto una formazione un po' alla cazzo all'inizio, perché vabbè, questo era quello che faceva. Bischer largo destra, a sinistra, alto a sinistra, io me lo ricordo. Anche alto, ma anche alto a destra, perché forse non c'ero in quel giorno lì, per fortuna ero assente. Tranne prima punta, portiere e centrale di difesa, ha coperto tutti i ruoli. Sì, beh, più o meno tutti. Che lui faceva, poi ovviamente stiamo scherzando, nel senso che era probabilmente era la sua idea di mettere una formazione un po' così il primo tempo per poi migliorare nel secondo. In queste ultime due partite il Bologna ha usato un po' questa tecnica, sia col Napoli, ovviamente col Napoli il primo tempo non c'è stato un tiro in porta, sono mancate tante azioni che caratterizzano questo gioco, del gioco del calcio, perché era una partita super tattica e strategica. C'avevi pure l'avversario tosto davanti a te, non vai a fare lo sgruffone contro il campione d'Italia, ci sta. Però è un copione che si è ripetuto anche con l'Udinese. Primo tempo molto più guardingo e poi svolta nel secondo tempo con la squadra che appunto i gol, soprattutto l'Udinese, nascono, come diceva prima Simone, dal super pressing riesce a fare il Bologna, e quindi da quello è. Arriva anche il gol di Bernardeschi. Pensa a te. Un'altra cosa, per esempio, la settimana scorsa ho dileggiato Bernardeschi, su Dall'Ingano dette tante, e un altro segnale che sta andando tutto bene è che questi due si inventano un gol, perché Dall'Inga fa un numero davvero clamoroso, e quello Bernardeschi segna porta vuoto, ok, però l'azione va anche prima, l'avevamo già detto in realtà, Bernardeschi è arrivato in forma, aveva cambiato il passo nelle ultime giornate, comunque aveva cambiato il modo di correre, l'efficacia, diciamo così, della sua corsa. È ovvio che quello, il gol a sbagliare era più difficile che farlo, questo sicuro, però devi farti tutto il campo, essere lì perché per poterla sotto poi curva, poi bello, poi poterla. Spicco dei tifosi, bello. L'avevamo detto la settimana scorsa, manca solo la ciliegina Bernardeschi, il gol, l'assist, il numero che gli può dare e ti può far dare qualcosa in più. Ovviamente adesso con gli infortunati, Cambiaghi e Rowe soprattutto, appunto per un po' non ci saranno, avere un Bernardeschi in più non è male. È fondamentale. Spendiamo qualche secondo sugli avversari. L'Udinese, Okoye è il primo portiere della storia del calcio a parare un rigore a Orsolini? Sì, tra i professionisti sì, lo è. In Serie A sì, lo è lui, è Okoye. Lo paravo anch'io, eh. Sì, lo tira malissimo Orso, lo tira veramente veramente male, centrale e non potente. Entra comunque negli annali la prestazione di Okoye, anche se penetra in occhi, in cui è spesso corresponsabile. Sugli altri giocatori dell'Udinese, bene Atta, che Atta è un bellissimo Atta. Quando l'ho detto quegli cazzo di accendi del giocatore dell'Udinese, guarda che non ci si ragiona mica. Hai ragione. Atta comunque è forte, è veramente forte, è un giocatore moderno, mi verrebbe da dire. Fisicamente prestante e anche di piedi buoni. Ha il problema di fare tutto bene ma non trovare se stesso da innescare. Cioè, quindi dopo che ha saltato tre uomini, la mette in mezzo, lui non può essere anche in mezzo. Lui dovrebbe, sì, quell'Udinese quindi dovrebbe anche concludere l'azione, ma quello ancora non ce la fa. Segnaliamo una grande involuzione rispetto all'anno scorso di Solé, che sembrava un giocatore talentuosissimo, invece sembra un po' sulle sue, ma forse questo è collegato a un tentativo di frode in commercio dell'Udinese. Mi spiego. Giocatori dell'Udinese prevalentemente neri, grossi, con treccine, così l'osservatore dice: ho visto uno che gioca Udine, è fortissimo, ma chi? Quello nero? Sì. Quello con le treccine? Sì. Quello grosso? Sì. E gli danno un altro. E questo è un po' l'idea. Sì, Frode, sì. Frode in commercio, nel codice civile c'è questa cosa. C'è anche questo, quindi il rischio è quello. Bene, abbiamo il primo stacco e poi tra poco la top 5, che oggi è polposa. Rientriamo in diretta, seconda parte di Caffè Paglia di quest'oggi, puntata ovviamente incentrata nella prima parte sul Bologna, Bologna che non è presente nella top 5, del resto questo ne abbiamo già parlato, appunto, dell'ottimo Bologna in lotta per lo scudetto. Anzi, come dice Simone, favorita in questo momento dalla, per la lotta allo scudetto. Come nei programmi di calcio mainstream, no, non è vero, perché nei programmi di calcio mainstream si parla sempre delle grandi come squadra copertina, noi invece abbiamo il Bologna squadra copertina, adesso dedichiamo un poco di tempo alle altre. Esatto. Le altre. Una cosa interessante, mi è capitato ieri di cercare di guardare un attimo Sky per un qualche secondo e due o tre volte nel corso del giorno, poi parleremo del Bologna che sta andando molto bene, questo è stato tre volte l'ha detto, ma meglio poi parleremo teaser. Era dei teaser, ma non è mai arrivato il momento in cui ne hanno parlato e speriamo ne possano, ne debbano, diciamo, parlare fra un po', perché vuol dire che è evidente la classifica continua a essere quella di adesso. Oh, allora, siccome noi diamo un po' di continuità anche estetica al nostro racconto della giornata di Serie A, partiamo con un punto in top 5 che si chiama Export Rosso-Blu, ovvero come rendere sexy il calcio italiano all'estero. Sì. Se prendi una fascia oraria di quelle imprevedibili e impreviste, sì, ci metti una partita spettacolare. Beh, imprevedibili e impreviste... non era sabato alle 3? Sì, no, avrebbero potuto fare di meglio. In sabato alle 3 c'è la Premier nel mondo. Infatti se la sono giocata male, avrebbero dovuto farla a mezzogiorno, esatto, e mezza, quelle... o alle 18:30. Dovevano giocarsela un altro round. Lunedì mattina, non lo so, cioè, perché comunque in Thailandia c'è della gente che non sa cosa fare a quell'ora. Appunto, poteva essere bella. Perché è finita, è stata una partita scoppiettante. Il Genoa, io me lo ricordo, prima dell'arrivo di De Rossi, che era una squadra che giocava, ma non segnava, non segnava mai, però insomma, giocava a calcio. In questo momento, da quando è arrivato De Rossi, è una squadra che segna un sacco e prende anche però tanti gol, nel senso che comunque è stata una partita scoppiettante, un 3-3, quello di Cagliari, con anche un po' di Caprile in mezzo. Caprile l'avevamo incensato proprio la settimana scorsa. Coppa nostra, alziamo le mani, Coppa nostra per tutti i fan da calcistici in ascolto, Coppa nostra. Sai che io riascoltando il podcast, anzi ricordiamo, si può ascoltare il podcast anche della trasmissione, riascoltando il podcast ho sentito Simone parlare bene di Caprile e lo stavo per mettere in campo fatta calcio, seguendo il suo consiglio. Per fortuna non l'ho fatto. Così, spoiler, tre gnocchi prenderà Caprile, tre gnocchi farà anche il Cagliari, finirà 3-3, un pareggio spettacolare, pirotecnico tra due squadre in maglia rosso-blu. Giocava in casa il Cagliari, che si prende la soddisfazione di far mettere a referto la prima doppietta in Serie A per Borrelli, l'attaccante che il Cagliari cercava, perché effettivamente c'è ancora Pavoletti in distinta del calcio, cioè ricordiamolo per chi si fosse distratto. E il Genoa con Daniele De Rossi cambia mentalità, perché continua a giocare a calcio come faceva già con Vieira, ma decide che deve anche tirare in porta di tanto in tanto e fa comunque tre gnocchi anch'esso. L'ultimo è metà di Caprile. Un po' più della metà. Anche più della metà. Comunque, ecco, una parola positiva su De Rossi la vogliamo mettere? Cioè, il ragazzo è stato criticato, è stato messo anche in posizioni pesanti, è stato preso come parafulmine in una situazione pesantissima a Roma, è andato a Ferrara anche, no? È passato alla SPAL. Senza società, perché è fallita quella SPAL che aveva chiamato De Rossi, poi è fallita e è ripartita dall'eccellenza, quindi in situazioni strane di tutti i campioni del mondo del 2006. Ma che gli va a dire, Daniele? Innanzitutto ti fa la samba, quindi cioè per me finisce già qua la disamina tecnica di De Rossi, e finisce qua, ti fa la samba, quindi come prima squadra, no, ma cioè, prima no, della Roma, tra le sue simpatie c'è anche la San Benettese. Che gli va a dire, Danielino, di tutti appunto gli eroi del 2006, magari non è più preparato a livello proprio tecnico-tattico, però sembra sempre quello più onesto intellettualmente, grandioso nelle conferenze stampa, è uno di quelli che fa sembrare una conferenza stampa qualcosa di interessante rispetto alle solite gne, insomma, comuni, e sembra stia dando un gioco più coraggioso al Genoa, sembra più votato andare a cercare magari un pericolo in più, come hai detto tu, cioè ne segna, di, segna tanto, ma ne prende pure tante, cioè, sembra uno di quei pugili che non c'ha paura, ok, ne prendo tante però te ne do pure, insomma, almeno nello stesso numero, vediamo, vediamo, voglio sperare che ce la faccia, insomma. Beh, questa, insomma, alla fine ci è piaciuto questo suo inizio. Se vogliamo dare due giocatori in copertina a questa partita, possiamo, vabbè, oltre a Borrelli che fa doppietta, Palestra del Cagliari, vabbè, l'abbiamo già messo in top 5 più volte, un'altra grande prestazione. Ma veramente l'abbiamo già messo in campo ai mondiali del 2030, non so. Esatto, esatto. Questo è il ragazzo di cui parlavamo settimana scorsa insieme a Caio Rega, beccato l'annata sfortunata, ma è un buon atleta. E non su questi ragazzi che dobbiamo andare. E una menzione anche per Østigard, che è il capocannoniere del Genoa, che è una squadra che non segna, ma il capocannoniere comunque è un difensore. È il difensore, fa sempre gol Østigard, è vero, questo è il segnale. Ha segnato anche Vitigna, perché ogni tanto anche un attaccante fa gol nel Genoa, e poi l'altro l'ha fatto Martin, quindi un altro difensore, quindi insomma il tema del poco attacco rimane. Sì, è una punizione dalla tre quarti che rimbalza tre metri davanti a Caprile, che non può né scendere né salire, né scendere né salire, e la palla finisce rovinosamente in porta. In realtà da quella posizione Caprile poteva fare qualunque cosa, forse tranne bloccarla con due mani, però decide di non fare niente, è andata così, è una crepa nel percorso di crescita di un grande portiere. Coraggio, è andata così. Primo punto andato. Ricordiamo il 333 180 94 94 per i messaggi WhatsApp, Telegram, SMS, per interagire con noi e anche commentare questa top 5. Andiamo al secondo punto. Oh, abbiamo parlato di un grande romanista in panchina, di un portiere che è stato MVP dei suoi for a long time e poi prende una crepa che comunque incide pesantemente sul risultato. Andiamo a vedere la Roma che fa una partita gasperiniana, la prima partita gasperiniana della Roma di quest'anno, la fa a Cremona allo Zini, vince 3-1 alla fine, una partita in cui succedono molte cose, soprattutto l'impronta gasperiniana di aperture del campo, ricerca della profondità, si inizia a vedere un po' di più dopo una Roma che ne ha vinte tantissime, sempre in modo un po' sparagnino. Quello che non stupisce è che ancora una volta, anche se è una squadra di Gasperini non te lo aspetti, l'MVP sia il portiere Mate Svilar. Beh, rimane da un paio d'anni uno degli MVP, ricordiamo anche la cavalcata di Ranieri, che spesso era, insomma, segnata da grandi partite di questo portiere. Questa cosa della Roma a me fa paura invece, cioè il fatto che sia lì quando non è ancora diventata gasperiniana mi fa pensare che abbia margini di miglioramento, e questo per la corsa allo scudetto, perché questo è l'obiettivo, lo sappiamo, inizia a preoccuparmi un po'. Allora, è vero che la Roma è squadra matta per ambiente frizzante, è vero che se si accende in positivo poi insomma c'è una carica clamorosa, per ora, però, è così, per ora è così, per ora è così. Leggevo stamattina di Svilar a proposito, la statistica molto importante è il portiere che ha portato più punti alla propria squadra. Sì, sì. Ok, tramite gli XG ha portato tipo 5 XG, che è una cifra proprio seria. Siamo sempre lì, nel campionato italiano non c'è un cazzo da fare, se la difesa funziona la classifica è buona. Un'altra statistica clamorosa che leggevo tra ieri sera e stamattina: su 18 formazioni, su 18 squadre, in 13 hanno utilizzato il 3-5-2 come schema tattico di base. Su 20, dici? Su 20, esatto. Su 18 partite, adesso non mi ricordo dov'era la scala della statistica, però 13 su 18 è tanto. Su 18 formazioni, mi sembra di aver letto. Non riesco a essere chiaro sulla statistica, chiedo scusa, non me la posso ricordare, però c'era appunto una cifra clamorosa di 3-5-2 utilizzati da praticamente la squadra più bassa in classifica a quella più alta. Il 3-5-2 in sé non è il diavolo, perché in realtà è un modulo che ti permette di variare bene, puoi passare un 3-4-3 immediatamente, lo puoi rendere offensivo. Io ho visto del 3-5-2 molto offensivi. Il problema è l'accezione che gli diamo noi, perché noi lo scriviamo 3-5-2, ma è sempre 5-3-2 invece. Quella è la differenza, quella, appunto. Quella. L'interpretazione di quel tipo di schema, appunto, può essere cambiata in maniera molto diversa. È ovvio che a volte il 3-5-2 può diventare anche un 3-4-3, per dire, nel senso che se è offensivo può essere più simile a quello, oppure può essere spesso più simile al 5-4-1, con cui finiscono molte squadre. Con cui si racconta il calo del desiderio, quando uno non gli va più di fare le cose, è 5-4-1. Esatto, quello lì è la situazione. Va bene, però questo è il punto, quindi Roma pericolosa, Roma in testa in questo momento con 2 punti di vantaggio sulla seconda. Sì, segnaliamo per la Roma, comunque MVP assolutamente svila tra i pali, e poi marcatori sulle Ivan Ferguson al suo primo gol in Serie A e Wesley Franca che dopo una grande ricerca dell'Università di Camerino si è capito che Wesley è il nome e Franca è il cognome. Ok, bene, quindi sarebbe Franca da dire, bisognerebbe chiamarlo Franca più che Wesley. Ma era la giornata, coi nomi delle mamme sulla schiena, e poteva succedere un casino, ha lasciato Wesley. Ah, ok, perché rimane comunque sempre Wesley, che credo sia il secondo gol, il primo col Bologna alla prima giornata, il secondo alla fine di un'azione fantastica, quello è proprio un altro marchio gasperignano che comincia, insomma, a venire fuori. Quelle sono le azioni, come la scorsa settimana Mancini che fa l'assist a Selic, 2 settimane fa ovviamente. Ci sono alcuni segni di gasperinizzazione della squadra preoccupanti. Squadre degasperinizzate, ovvero come sta l'Atalanta senza Juric? Cioè, Juric, perché devi prendere Juric? Però ormai l'hai preso e poi l'hai anche mandato via. È arrivato Raffaele Palladino, un allenatore che l'anno scorso ha lasciato, alla fine, insomma, ha fatto un buon lavoro, pur senza note di gioco particolarmente riconoscibili, senza grande personalità, però con buone doti di gestione del materiale che aveva, che si era trovato improvvisamente disoccupato alla fine di quest'estate, non si sa perché, ma forse si sa, ma forse non si sa. O forse si comincia a capire. Sì, diciamolo pure. Riparte con un impegno pesante per i suoi ragazzi, incontrare il Napoli di Conte che era appena tornato dalle vacanze. Sì, Conte si è inventato questa, devo dire che da un punto di vista, insomma, del genio mediatico, Conte forse dopo Mourinho è il più bravo. Lui fa quell'uscita commentata tra l'altro da Simone 2 settimane fa dopo la partita del Napoli persa a Bologna. Non voleva accompagnare il morto, una roba terribile, cose eleganti così, esatto, cose di questo tipo. E poi che fa? Si prende 5 giorni di ferie, cioè va via da Napoli e torna a Torino tra l'altro, e va, si stacca un po' dalla squadra, lasciando la squadra al vice. Una interpretazione è, dopo quelle parole lì, se vai in allenamento finisci a cartelle. Probabilmente il clima era più o meno quello, finisci a cartelle in malo modo. Ha fatto decantare, probabilmente c'è anche, immagino, essendo persona che fa di questo un mestiere molto ben pagato, credo che l'abbia fatto, cioè è stata una scelta già pensata di dire quelle parole, quel peso, e poi svignarsela un attimo e lasciarli un attimo lì. In realtà la partita per il Napoli è stata positiva, cioè venivamo, l'ultima era quella col Bologna, quindi sicuro è migliorata. E vede tra i protagonisti quelli che non ti aspetti effettivamente, perché chi lo avrebbe detto, Regaz, tra di noi, di vedere in una partita del genere una doppietta di Davin Neres? Dopo l'inizio che aveva fatto, Neres comunque positivo, un giocatore strano, nel senso che un giocatore che non ha avuto la continuità, però ha dei colpi importanti. Ma in realtà penso si ricolleghi alla mossa appunto di Conte, perché Neres insieme all'altro esterno, insieme a Nolang, erano proprio accendo del dibattito, insomma, emotivo, sportivo più caldo, diciamo, della Napoli sportiva. E non è casuale che invece al ritorno, dopo appunto una settimana in cui hai lasciato di cantare, te li mette tutti e 2 titolari, e quindi intanto con un tridente offensivo puro, perché centravanti più i 2 esterni molto offensivi, cioè credo sia tutto effettivamente collegato ad un disegno che probabilmente si era già fatto lui in testa, effettivamente sì. Poi questi entrano in campo, dimostrano, finalmente cominciano a dimostrare che comunque no, Lange e Neres non sono gli ultimi 2 arrivati. Ok, anche Lange è stato pagato, certo, questo sono anni che gioca a livello europeo, cioè non è l'ultimo scartino. non amo tanto i giocatori che appena segnano bacetti sugli stemmi, dediche, queste sono cose che ormai insomma, non attecchiscono più. Però evidentemente è servita la botta che ha dato, un po' cruda, magari un po' esagerata di Conte, però sembra anche lui si è convinto a fargli giocare, però, perché non avrebbe mai rinunciato a Politano prima. Il fatto di essere qualcosa, ma anche il fatto di essersi tolto, forse era come fare un passo indietro. Sì. È un po' come Fonzi in Happy Days, lui scusa, non lo dirà mai, non ci riesce però. Però il gesto è stato un po' quello. Lui è tornato e ha detto scusa. Una roba del genere al primo allenamento che ha guidato. E poi mi sembra, e anche questo insomma è importante per quello che è una delle avversarie del Bologna, per la lotta, cioè stiamo parlando solo per quello, ci interessa solo per quello, ovviamente. Oh, bene, andiamo avanti con due squadre che in questo momento non sembrano avversarie del Bologna, cioè se guardi la classifica ti stupisci che una delle due abbia così tanti punti, ma non sembrano avversarie del Bologna, perché in quello che la riunione di redazione aveva soprannominato il derby dell'asteroide, quello in cui con il migliore risultato possibile danni strutturali all'impianto, cioè ma anche 0-0, ma inagibilità del Franchi per 15 anni, ecco, quello che vedi in campo sono due delle squadre col più brutto centrocampo del calcio italiano contemporaneo e moderno, anche direi. Eh sì, veramente strana la partita, cioè pensata all'inizio del campionato con Pioli allenatore, il Tudor che aveva guidato al campionato mondiale per club la squadra, c'è anche stato questo, e io pensavi potesse essere una sfida, anzi no, cos'era? Era meno decente. C'era la gag bellissima di Pioli che Allegri non ci mette tra le favorite della Champions, l'abbiamo scritto allo spogliatoio e cose del genere. Infatti nello spogliatoio c'è scritto Allegri non ci mette tra le favorite della Champions, cioè c'è proprio scritto così. Non ha funzionato. Non ha funzionato per niente. Cioè adesso c'è scritto Allegri aveva ragionissimo, anzi è stato anche è stato buono perché in realtà leggeva a proposito di statistiche solo una squadra nella storia del campionato di calcio che non aveva vinto dopo 12 partite neanche una vittoria si è riuscita a salvare, questo è la statistica, quindi insomma in questo momento la Fiorentina deve sfidare gli dèi, la Fiorentina deve sfidare qualcosa di importante, perché la Fiorentina è ultima insieme al Verona a 6 punti dopo 12 giornate, appunto, dopo però un buon pareggio con la Juve. Questo è. 6 punti di cui ci sarebbe da dire su due di questi 6. Ma no, comunque no. Reali 4. 4 reali, 6 in realtà portati. Questo è, cioè, in questo caso secondo me non voleva riaprire la polemica, ma solo sottolineare che insomma gli è anche andata bene. Non è che sono stati sfortunati. Il Verona ha 6 punti, però un po' di sfortuna l'ha avuta. Ha avuto i due giocatori che tiravano di più, non ha mai fatto gol, cioè delle cose che insomma delle due potevano essere. Il Genoa appunto giocava bene con Viera, ma non segnava, ecco, diciamo quelli sono i 6. Il Genoa che ha 8 comunque, quello che andava bene. Ma per il pubblico fiorentino a noi ci dispiace? No. Pubblico peggiore d'Italia. Ieri Cori contro Vlahovic rischiano di far sospendere la partita, ma quello è un qui si può, come diceva Stefano Benni. Quindi l'arbitro dice a Ranieri: se non gli vai a dire di stare calmi, io potrei andare a dire di far mandare il messaggio dagli altoparlanti, e alla fine della seconda volta che mandiamo il messaggio agli altoparlanti, se la situazione non è rientrata, dovrò chiamare i capitani e dirgli che c'è il rischio che io possa far sospendere la partita. Vabbè, ok, garantismo totale, un paese molto garantista questo. Va bene, e questo è quindi una partita abbastanza brutta, scialba, tra Fiorentina e Juventus che appunto è stato il premio per l'ottima direzione della nazionale di Spalletti. Irriconoscibile anche lui, perché cioè, non ho capito, quest'uomo è da quando è andato in nazionale che ha cominciato a piegarsi le idee altrui, ma adesso insiste con questa ripresa 3 che non ha mai utilizzato. Non si capisce, sei lì, hai accettato un contratto di 8 mesi e già questo dovrebbe raccontare un po' le cose. Poi devi starci 8 mesi, perché 8 mesi ci starai. Almeno 8 mesi. Cazzo, allora cioè, giocatela bene, no? No, continui sempre questa cosa melmosa, stancante, di sti allenatori codardi, sempre poco coraggiosi. È gente che per risolvere un problema non è che si fa illuminare la lampadina sulla capoccia, no, continua con i vecchi sistemi sperando che prima o poi funzioni qualcosa. Però Spalletti non è sempre stato così. Ma cioè, dello Spalletti di adesso posso parlare, lo Spalletti di adesso è un allenatore che faccio fatica a riconoscere. Vabbè, comunque, tra le cose da segnalare di questa partita, nel gol di Kostic l'azione insistita ma brutta della Juve vede una sponda di culo di Locatelli, chiappe. C'è chiappe di Locatelli al limite dell'area che rimette in gioco un pallone da cui poi scaturisce il tiro da fuori di Kostic, che non ricordavo fosse un giocatore di Serie A. Quando ho letto il marcatore ho detto, ma giocava Kostic. Al secondo gol consecutivo, se non mi sbaglio. Adesso guardate il gol della Fiorentina, la sassata bellissima, però non c'è nessuno che va a fare qualcosa. Cioè, ma non è possibile un atteggiamento così nel cuore del campo, proprio lì, la zona nevralgica dove si svolge, insomma, il gioco del calcio. Anche Di Gregorio, tu non la puoi guardare la palla, perché tu ti butti, ti lanci, ma non allarghi il braccio però. Cioè, è contro istintivo, non so come dire, è innaturale non allungarle il braccio nel momento in cui tu, portiere, sei già in volo. Non so, sarete stati pure voi in porta, no? D'estate, quando tu ti lanci, è automatico, no? È proprio naturale che il braccio si allarghi verso la direzione della palla. Invece quello si lancia guardando la palla che si infila. Non so che dire. Non è il primo errore di Gregorio, di questa stagione. Alterna ottime partite a problemi e errori importanti. Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma la Juve ha addirittura 20 punti giocando così. Andiamo a chiudere questa top 5 con un risultato che ha lasciato il nostro regista abbastanza turbato. C'è della malinconia perché il derby della Madunina si risolve in un omaggio alla milanista fracica Ornella Vanoni. Sblocca una persona, di giocatore di estrema destra, persona di estrema destra, Pulisic, e Çalhanoğlu si sbaglia il primo rigore, si fa parare il primo rigore in Serie A. È vero, anche lui in questo caso. Secondo, dice il nostro regista, secondo. Ne ha visto uno lui presente. Vabbè, adesso ne discutete dopo. Cioè, tra poco c'è la pubblicità. Una cosa sul gol del Milan, parlando di porcieri, cioè, nei Pulcini a te porcieri ti insegnano che la palla non va mai rimessa verso nel campo. No, ma sì, c'è, sì, ma che cazzo. Quello è un errore grave di Sommer. È un errore grave di Sommer che non la manda in calcio d'angolo, cioè lì la devi portare verso l'esterno. E poi Pulisic arriva e dopo, vabbè, è ovvio, facile il tiro, non era un tiro, cioè Salemakers aveva fatto una gran corsa, è arrivato lì e non è che ha fatto un tiro, uno scaldabagno, era un tiretto in diagonale, colpita anche non troppo bene, però Sommer la deve mandare fuori. E poteva essere forse un risultato in realtà, appunto, per l'Inter, che sbaglia un rigore, prende pali e si rivede un po' il Magnan anche dei tempi dello scudetto. Ricordiamolo, Magnan ai tempi dello scudetto è probabilmente stato il migliore, clamoroso. Il migliore del Milan, cioè, quindi era veramente un portiere incredibile. Fatto sta che, appunto, ancora 1-0 per Allegri, e il Milan è lì senza coppe, al secondo posto in questo momento insieme al Napoli a 25 punti, veramente troppi. E abbiamo detto troppe parole. La terza parte di Caffè Paglia di quest'oggi, la parte della trasmissione che si occupa di calcio estero, di situazioni varie che sono successe nei campionati che stiamo seguendo. C'è interesse ovviamente nella Premier League, soprattutto perché attendiamo i commentacci del nostro Simone, solo per quello, ci interessa solo per quello. Se non ti dava fastidio non partivamo con la Premier League che comunque ha l'Arsenal ancora in testa. Arsenal che strapazza il Tottenham nel derby di Londra, invece il derby del North London, esatto, okay. Non solo di Londra, perché i derby di Londra ce ne sono tantissimi. Questo è il derby di una zona di Londra, zona di Londra che è gigante, comunque grande. Partiamo sempre come al solito dall'estetica. L'anthem jacket con cui entra in campo l'Arsenal è meraviglioso. Ok, vabbè, ma l'estetica Arsenal, devo dire, devo essere onesto, ha piani altissimi. Sempre stata veramente stilosa. È bello lo stadio, è bella la divisa, è bella la giacchetta. Ieri addirittura avevano una coreografia. di quelle fisse che rappresentava un po' tutta la squadra. Non mi ricordavo più una curva inglese con una curva, era di quelle fisse, non espressa nei singoli elementi presenti in curva, era fissa, un cartonato gigante che rappresenta tutta la squadra. Niente male, Arsenal che domina la partita, cioè Eze che chiude con una tripletta e poteva essere un poker, ma Vicario insomma gli toglie un ultimo gol gigante, tutti gol bellissimi di tecnica e balistica, un dominio. Eze, ex Crystal Palace, in una Premier League che ha speso i miliardi veri, probabilmente acquisto più a segno della sessione di mercato. Esatto, tra l'altro nella stessa partita un ottimo gol di Richarlison, Richarlison, esatto, quasi da centrocampo, sì. Il gol del momentaneo 3-1, poi finisce 4-1, mi sembra l'Arsenal comunque quest'anno molto molto quadrata, più quadrata del solito, l'Utopia Gunners è sempre lì dietro l'angolo, però sembra proprio una squadra quadrata, lo dimostra anche il fatto che ha preso 6 gol in 12 giornate. Prima, alla fine le difese sono importanti anche nel campionato più spettacolare, più votato all'offensività del mondo, insomma, possiamo dirlo così tranquillamente. Certo, vuol dire 6 gol, sono un gol ogni 12 partite, prendi un gol ogni 2 partite, insomma, questa è la situazione dell'Arsenal. Stavo guardando nettamente la migliore difesa, c'è anche il Crystal Palace che che lotta bene, ha 9 gol subiti ed è quinto. Crystal Palace che squadra dall'estetica più italiana delle squadre di Premier, sia sugli spalti, io più sugli spalti che in campo, comunque vince 2-0 in casa dell'ultimissima Wolves, che rimane ancora lì ferma con la maglia nera dei campionati europei, perché ha 2 punti, direi che insomma, sono già 9 punti di distacco dalla ipotetica zona salvezza, quando ne hai 2. Che la Premier, quando deve esprimere la propria maglia nera, esprime dei capolavori di squadre, male. Ricorda un po' Southampton dell'anno scorso. Probabilmente il Vos prenderanno Juric a un certo punto della stagione, arriverà Juric. Questa è una scommessa che devo analizzare bene, che devo analizzare. Grande Mingo, potrebbe essere una bella idea. Per quanto riguarda le altre, due elefanti nella stanza sono le sconfitte dolorosa, quella del City sul campo del Newcastle per 2-1, dolorosissima quella in casa ad Anfield del Liverpool contro il Nottingham Forest. Sì, continua la stagione del Liverpool, continua a essere diciamo senza senso, le puliscono di continuo e da tutti, per quanto hanno speso, per quanto hanno investito su una squadra che non era scarsa, cioè non è che l'anno scorso fai campioni in carica questi qua, non è che insomma hanno fatto una stagione dignitosa, diciamo così. In questo momento sono undicesimi, pari al Manchester United e al Tottenham, sono un trio di qualità lì in mezzo alla pancia della classifica, e iniziano ad avere un po' di punti di distacco, ad esempio il Liverpool ne ha 11 dall'Arsenal, essendo l'Arsenal bisogna sempre pensare che può succedere qualcosa, quindi diamolo per insomma ancora molto aperto questo campionato, anche perché sotto l'Arsenal in questo momento c'è il Chelsea di Maresca con 23 punti, e un Maresca che mi sembra anche dal punto di vista della personalità crescere nella gestione di un campionato che dal punto di vista dei media e della insomma le dimensioni un po' di tutto l'apparato del sistema calcio inglese, insomma. Lui ha già vinto la Serie B, la Championship, però certo, sì, vuol dire che già è ambientato. Ricordiamo che è stato sfortunato, ha iniziato ad allenare il Chelsea che aveva una rosa di 60 elementi, piano piano nel corso dei prossimi 8 anni la sfoltirà fino a diventare ampia come quella di una squadra normale. Dici che ci sarà questa possibilità? In 7-8 stagioni. Ah, ok, sì, anche perché loro fanno contratti molto lunghi, no? Sappiamo aver inserito una tecnica usata nel baseball e adesso anche negli altri sport, inizialmente nel baseball, poi anche negli altri sport americani, di avere contratti lunghissimi, così a bilancio il peso è diverso dell'investimento iniziale, soprattutto. prima di cambiare campionato segnaliamo che lo United incontrerà l'Everton e se vincesse l'Everton si creerebbe un mucchio selvaggio di squadre a 18 punti. Ah, è vero, quindi il Manchester United potrebbe invece andare a 21 saltando un sacco di squadre e arrivando a pari all'Aston Villa. Quindi il Manchester United è una partita importante, la parte bassa è molto molto chiusa, stretta. Ma a me piace molto il mucchio selvaggio a 18, perché 18 in 12 partite, un punto e mezzo a partita è la media inglese perfetta. Per eccellenza. Ebbene, quindi questo è quanto. Comunque campionato ovviamente interessante che continueremo a seguire. Si è fermato il Real Madrid, se non vado errato, ho visto i risultati, e quindi andiamo in Spagna a vedere. Pareggia con l'Elche E gli segnano due suoi canterani. Entrambi gol, doppio gol dell'Elche. Sì, sono due giocatori nati e cresciuti nella fabbrica, insomma, madridista. Non hanno mai giocato, uno dei due non ha mai giocato, l'altro, quello che pareggia, mi sfugge il nome, credo che forse un debutto l'aveva, insomma, era riuscito a conquistarsi con la maglia del Real. Fece 2-2, partita che il Real deve due volte rimontare, sai, un po' ostiche, tutte e due le volte in svantaggio. Il primo gol è di Febas, Paresa Uisen, di cui da questi microfoni qualcosa avevate sentito. Ma che cazzo, ci posso ancora, cioè, guarda, lasciamo perdere, guarda, mica mi devi rovinare il fegato. È una delle ferite aperte di Simone. È anche l'ultima scoperta di Mourinho, cronologicamente, se ci pensiamo. Mourinho lo fece arrivare a Roma perché disse: questo è fortissimo, voi non capite di pallone, questo qua è un fenomeno. Ecco, adesso io non voglio dire niente, ma volevo dire a Mourinho che in realtà da questi microfoni qua, da queste quattro pareti qua, ve lo diciamo da quando ero un bambino nelle giovanili del Malaga, del Celtic, credo del Malaga, adesso non mi ricordo bene. Quindi Mourinho, cioè, lo sapevamo già, okay? Lo sapevamo già. Simone era prima di Mourinho. Primo Simone, secondo, medaglia d'oro a Simone, medaglia d'argento a Mourinho. Sì. Ah, la sua Eisen sì. Okay. Comunque questo è il gol, era dell'1-1, e poi Bellingham pareggia il gol di Rodriguez, che è quello che aveva riportato in vantaggio il Lecce. E il Barcellona invece vince 4-0 contro l'Athletic Bilbao. Maledetti. Proprio a strapazza gli Atleti, e quindi arriva a un punto dal Real Madrid. 32 sono i punti del Real Madrid, 31 quelli del Barcellona. Non molla la presa, però, neanche il Villarreal, che vince 2-1 a Mallorca e rimane lì nel trenino, alle spalle delle prime due, ovviamente, però a 29 punti davanti all'Atletico Madrid, che rimane nell'ultimo vagone del treno per l'Europa altissima, con una vittoria di basso profilo, 1-0 sul campo del Getafe. C'è però una bella Real Sociedad che vince il derby, se non mi sbaglio, contro l'Osasuna, posso sbagliare, contro l'Osasuna, e c'è un altro gol simile a quello di Richard Leeson, stavolta di Barrenetxea, che realizza il terzo gol da centrocampo, dando una bella mazzata da centrocampo sotto la traversa. È una bella partita, finalmente la Real Sociedad, con un cambio d'allenatore, mi è dispiaciuto molto perché a Imanol Aguasil ho voluto davvero molto bene, ma c'è questo nuovo allenatore, credo Francisco si chiama, dovrebbe chiamarsi così, e insomma è partito bene la nuova avventura. Bene, sì, nelle ultime partite sta riprendendosi, a metà classifica, essendo poi la parte, diciamo, ci sono quattro squadre che sono nettamente staccate già dalle altre: il Betis, che è quinta a 21 punti, quindi 7 punti dalla quarta, e le altre però sono tutte lì, e il Real Sociedad con 16 punti può aspirare ancora a uno spazio, un posto in Europa, non quella che conta, non la Champions, ma un'Europa potrebbe ancora arrivare. A questo punto cambiamo campionato, andiamo a vedere in Germania. In Germania cosa succede? Penso che il Bayern abbia vinto, ho come l'impressione che abbia vinto 6-2, sì. Però perdeva 2-0. Perdeva 2-0, esatto, dopodiché si è svegliato Lise, che ha cominciato a fare letteralmente quello che voleva in campo, letteralmente quello che voleva. Credo abbia fatto 2 gol e 3 assist. Una cosa del genere. Ha preparato il caffè, ha fatto pure il massaggiatore a un certo punto. Ha fatto partita dominata. E beh, 6-2, che c'era di Bayern Monaco. È legittimo il sospetto che tu sia un po' stronzo se stai prendendo 2-0 poi ne fai 6. Cioè, che ci sia della malizia in questo modo di interpretare la gara. Un po' così, un po' svagato, un po' stanco, un po' annoiato probabilmente. Segna anche Kane, diciamo. Vabbè, questo, però credo che abbia fatto 6 gol. 5-2 forse, una cosa del genere, quindi non cose che contano. Tra l'altro gli hanno anche annullato un gol, quindi potevano col VAR, quindi potevano essere anche 7 i gol del Bayern Monaco, che comunque domina a 6 punti di vantaggio sull'RB Lipsia, che vince 2-0 col Werder Brema e rimane al secondo posto. Il Leverkusen, che era partito male, si è ripreso in un progetto ovviamente nuovo, cambiato, tra l'altro cambiato due volte anche in corsa, una cosa strana anche per il mondo tedesco, dove insomma, tendenzialmente i rapporti diciamo, vanno un po', sono un pochino più, è una programmazione più a lunga durata, esatto, non, due mesi su due mesi, molto italiano, era una patata molto bollente, cioè arrivare dopo quello che era successo sotto Xabi Alonso non era facile per nessuno. Infatti. Però adesso si è ripreso, dove vince 3-1 in trasferta contro il Wolfsburg ed è al terzo posto, davanti anche al Dortmund, che ha pareggiato 3-3 con lo Stoccarda la sua partita. Il mio Colonia perde 4-3 contro l'Eintracht Francoforte. Vabbè, ma sappiamo, abbiamo detto, noi puntiamo a una stagione tranquilla, siamo lì in mezzo al decimo posto. Segnaliamo, per quanto riguarda i piani bassi, la sconfitta casalinga del San Paoli ad opera dell'Union Berlino, che è una squadra talmente normale che può anche vincere in trasferta 1-0. Contro una squadra che ci sta molto simpatica, però lo può fare. Adesso sì, il San Paoli in questo momento è a 7 punti, giocherebbe lo spareggio per la permanenza. Ecco, c'è stata discussione di Gravina, l'uscita bambino, di Gravina. Se proprio dobbiamo prendere esempio, facciamo almeno una cosa simile a questo. Vedo che stanno facendo in tanti. La sfida tra la terza ultima crea emozione e dà quella possibilità di, se sale una della Serie B che batte una che era in Serie A, diciamo così, vuol dire che è una buona squadra. Ma nello scontro di cervelli, De Siervo, Gravina, comunque è intervenuto a gamba tesa Tajani, che ai tempi di Forza Italia con Berlusconi in forma veniva raccontato come quello intelligente, quello colto di Forza Italia, Tajani, che la nazionale va male perché la sinistra ha tolto il patriottismo ai giocatori della nazionale. No, l'ha detto Bocchino forse, l'ha detto, non Tajani. Ah, Tajani, posso, facciamo finire. Quello intelligente delle MSI. Esatto. un simposio, insomma, di cervelli. Volevo dire sempre a Tajani, un consiglio spassionato. Non so se ha visto mai qualche film, non so, Il cannone di Navarone, cose del genere. Gli volevo spiegare che se c'è un attacco, i primi obiettivi militari di chi li attacca, indovina quali sono? I ponti. Cioè, è la prima cosa che succede quando vai in guerra, è la prima cosa che fai la nazione offensiva, butta giù i ponti, proprio per evitare l'approvvigionamento. Quindi, sta cosa del ponte, no? Che se è importante fare il ponte giù al sud, perché se c'è un attacco. Non l'avete sentito, Tajani? No, questa l'ho persa. Ha detto che il ponte è importante perché se c'è attacco dal sud è un mezzo che permetterebbe l'evacuazione dei siciliani, praticamente. No, l'evacuazione degli italiani. Se c'è attacco, andiamo tutti in Sicilia. In macchina, potrebbe essere così. Non ha mai letto così niente di guerra, non sa come cazzo funziona, pensi in che mani stia. Poi un ponte così lungo, no, sai? Non ne hai idea. Come è facile prenderlo? Come fai? Una cazzata del genere. È lungo il ponte, basta prenderlo in un angolo e l'hai già fermato. Va bene, ma questo torniamo alle cose serie. Il calcio, che è molto più serio di Tajani sicuramente. Stavo dicendo appunto il campionato del San Paoli, che è appunto in questo momento al terzultimo posto sotto Heidenheim e Magonza, che sarebbero invece retrocesse direttamente. Andiamo in Belgio a questo punto, perché il Belgio è sempre un campionato che noi amiamo, e abbiamo un Mechelen che continua la sua corsa, batte il Genk e rimane addirittura al quinto posto, quindi dentro alla pool scudetto. Sapete che in Belgio le prime sei vedono i punti dimezzati, i punti fatti in questa fase dimezzati, per fare un altro campionato tra di loro, andate e ritorno, molto molto bello. Allora, io segnalo il punto in 10 contro 10 dello Standard 10 in casa contro lo Zulte Waregem, perché ci permette di dire alle Standard e Zulte Waregem nella stessa partita. Sì, probabilmente la dovevo lanciare io. Lo Standard 10 meritava qualcosa in più. Hai parlato con i tuoi amici tifosi, quelli che hai incontrato al partello? Ha detto che all'ottavo hanno fatto un po' di bomboni, poi hanno iniziato a bere delle birre spalle al campo per evitare la tentazione di lanciarle in campo. campo e quindi non hanno capito molto. Però sono tirati tra di loro, diciamo. Alla fine la, sarà sicuramente finita così, non potevano dirglielo, raccontarglielo così, ma noi lo sappiamo. Comunque un pareggio che permette allo Standard Liegi di essere lì in mezzo al decimo posto nel girone del playoff conference, dove succedono le cose, perché rischiavi di andare a meno uno dalla pool scudetto. Ah sì, quindi con la vittoria era un casino. Ah, quindi era questa la scelta. Anche il VAR, che del resto se vinceva andavano avanti, anche loro forse vogliono rimanere in quella parte lì. Nella parte bassa il Dender si è un po' ripreso, era messo male il Dender. Dender, tre punti pesantissimi contro l'Anversa, che occupa anche dai posti, insomma, di bassa classifica, però una vittoria davvero davvero pesante, anche perché non segnavano mai, e adesso invece ultimamente iniziano a trovare la via della porta, e lo testimonia anche il 2-1 in casa dell'Anversa. Bene, ottimo. Dender si è ripreso, tanto lì c'era pulso salvezza, quindi puoi arrivare anche ultimo tranquillamente, te la rigiochi tutta dopo. Andiamo in Francia. Non ha vinto il Paris Saint Germain, quindi ufficialmente possiamo parlarne, ma mi sembra comunque un campionato comunque aperto, è un bel campionato. Ha vinto il Paris Saint Germain, appunto 3-0. Però nonostante abbia vinto, possiamo parlare perché il campionato è ancora aperto. Sia il Marsiglia che il Lens, diciamo così, sono ancora a portata di titolo perché sono due punti, quanti sono? Sì. A due punti di distanza. Il Marsiglia vince tra l'altro 5-1 il derby col Nizza, partita che mi immagino di una certa intensità anche lì intorno, diciamo. Ho come l'impressione che a Marsiglia si sia festeggiato questo risultato. 5-1 a Nizza, diciamo così, può essere tripletto o doppietto di Mason Greenwood, che là in Francia sta facendo un campionato stellare. Ne ha fatti due. Ne ha fatti due, anche ieri. Sta giocando molto bene. E invece come mai chi viene in Italia dalla Ligue 1 spesso stecca? Perché come al solito è una questione, penso, più di dinamismo, non è tanto la questione tattica che è molto molto più severa qua da noi, ma proprio come dinamismo. Leggevo un'altra statistica interessante: i giocatori del campionato italiano sono quelli che sprintano di meno rispetto a tutti gli altri campionati europei. Non siamo nella statistica, comprendeva i primi 10 campionati per chilometri percorsi in avanti dai giocatori, il campionato italiano non c'è, nei primi 10, non nei primi 5 come eravamo abituati, nei primi 10. Ok, quindi è molto probabile che un campionato molto più statico rispetto ai loro standard, ed è come se un giocatore abituato a poter percorrere determinati chilometri e metri in una partita si ritrova con dei muri di fronte a lui, letteralmente non sa, ci si va a schiantare su quei muri. Torniamo al 5-3-2 di cui parlavamo prima, quando tu quando tu entri nel terzo settore di campo e ti ritrovi davanti a te 9 giocatori avversari, non è mica facile. Non è facile trovare lo spiraglio, trovare il tempo giusto, probabilmente quello lì. Quello è sicuramente uno dei motivi. Perde lo Strasburgo, a proposito di giovani e di gente che fa chilometri, perde però con Lens, che è l'altra sorpresa della stagione, pari al Marsiglia, quindi si sta giocando come il Marsiglia il campionato con 2 punti di distanza dalla prima posizione. Poi il Lille, è stato avversario del Bologna in Europa League, a 23 punti. Poi lo Strasburgo, che appunto avendo perso cala un po', però rimane un'ottima stagione per una squadra, la squadra più giovane d'Europa, non so se è del mondo, ma d'Europa sicuro. Forse in Brasile qualche squadra, mi viene da pensare che in Brasile qualche squadra ancora più giovane ci possa essere, però sicuro in Europa lo Strasburgo da questo punto di vista è al primo posto, diciamo così. Abbiamo parlato molto anche del Hearts of Midlothian. Ti ricordi? Male, ovviamente. Ovviamente gli abbiamo tirato la classica guazza, perché ha perso 1-0 con l'Aberdeen. Li abbiamo battezzati proprio. Li abbiamo battezzati. Avevano tipo 9 punti di vantaggio quando abbiamo iniziato a parlare di loro. Ne hanno 4 con una partita in meno. Dai. No, una partita in meno il Celtic. Ah, loro, una partita in più. Quindi okay, l'Arts ha una partita in più, potenzialmente 1. Da più 9 a meno 1. Però vabbè, insomma. questo è quanto. Il Celtic vince 1-0 di misura sul San Mirren e si avvicina ancora di più. Le altre sono un po' più staccate. L'Hibernian è davanti, no, è pari ai Rangers, appunto, vedi lì i soliti nomi che da 40 anni sono i detentori del trofeo, o Celtic o Rangers, tenendo conto che poi i Rangers sono pure falliti per un periodo, quindi evidentemente molti li ha vinti il Celtic in quel periodo. In anni, sì, anche perché è fallito recentemente, neanche tanto tempo fa. Ed è rientrato. Bene, a questo punto abbiamo terminato, se non il momento di parlare con la San Benedettese che non vince. Niente, raga, veniamo da 7 partite in cui non riusciamo a ritrovare la vittoria, ma il problema grosso è che noi giochiamo. Non è che dici la squadra di merda non va, no, quello che ti fa rosicare di più è che in realtà l'impianto di gioco c'è, funziona, creiamo sempre quelle 6-7 palle gol a partita che le regolarmente poi dopo buciamo in eccesso, perché così anche ieri, cioè, buttate 4-5 palle gol a niente, ma Ranzino stava per fare un gol alla Zidane, per dirti, ma dribbla tutti in area e poi tira fuori, Konaté non riesce proprio a centrare mai il pallone, viene annullato un gol in rovesciata per giusto fuori gioco da Eusebi. È una squadra che crea tanto, gioca bene, ma purtroppo non segniamo. La zona playoff, diciamo così, si allontana un po'. Sono 3 i punti di distacco della San Benedettese dal Forlì, che in questo momento è la decima, l'ultima che partecipa ai playoff. Si avvicina invece quello del playout. Sono 4 punti, quindi comunque attenzione. Ma a noi ci mancano almeno 4-5 punti. Ieri poi dopo alla fine la riprende Candellori su assist di sbaffo. Una partita che dovevi vincere 4-0, ha rischiato di perderla. Con loro e Pineto che non fanno nulla, che un cross in area. Sai il classico cross in area che poi non tocca nessuno e finisce dentro? Così. Sono andati in vantaggio in questo modo qua. Niente, non sono ancora preoccupato proprio perché appunto la squadra in realtà la squadra c'è, gioca bene. C'è. Crediamoci anche durante la pubblicità. Ultima parte di Caffè Paglia, rientriamo in diretta salutando il nostro esperto di motori. Brum, brum, che oggi rombano tantissimo. Ciao Andrea. È la sigla ormai. Per mettere Viva Las Vegas, l'ho visto. L'avevo già messa questa. L'altra volta. L'avevamo messo l'anno scorso. Abbiamo un altro regista, esatto, che segue, esatto, queste cose, quindi. Bene, Las Vegas con il colpo di scena. Dopo 2 ore, mi sembra, dalla fine della gara, no? Premiano tutti, qua, commenti, bla bla, una serie di interrogativi sui comportamenti della McLaren in questa corsa. Ma partiamo dall'inizio, la partenza. Avevamo Norris che aveva fatto la pole, no? E secondo tempo l'aveva fatto Verstappen, che sappiamo è diciamo l'eroe di questi periodi in Formula 1. Il terzo era quello della Mercedes, era lui, non so, non mi ricordo, Russell, perché il nostro Kimi Antonelli partiva dal 14esimo posto, dal 17esimo, 17esimo, sì. E onore a lui che l'ha portata al quarto, nonostante avesse una squalifica di 5 secondi, perché praticamente i sensori hanno alla partenza individuato un micro movimento della sua macchina. Come sapete, se io muovo la macchina prima che ci sia il segnale verde di partenza, vengo in qualche maniera squalificato. Jump start. Scorreggia parecchio questo. Te l'ha detto il regista. Sì, sì, è vero. Ma però a noi ci piace perché fondamentalmente fa motore. E quindi Kimi Antonelli chiaramente adesso sarebbe salito sul podio se sarebbe arrivato terzo, se non addirittura in una posizione ancora migliore, ma però come dicevo, i commentatori osservavano che McLaren, soprattutto la McLaren di Norris, che si accontentava del secondo posto perché comunque i punti erano sufficienti a garantirgli, diciamo, il fatto di conquistare il titolo piloti, diciamo che notavano che negli ultimi giri c'erano degli strani dialoghi col box, no? Si pensava forse a poca benzina, forse c'ha qualche problema che quindi gli conviene tenerla buona, le gomme che stanno per esplodere, non so, no? tutto fuorché una chiacchiera che è in giro da più di una settimana. Attenzione, attenzione, attenzione. Qui perché qui allora cosa succede? La settimana scorsa, che come sapete non c'era nessuna gara, io seguo i miei, diciamo, commentatori non mainstream, no, della Formula 1, che troviamo tranquillamente su YouTube, no, basta cercarli, e oltretutto hanno anche un discreto seguito, nel senso, e salta fuori che c'è una chiacchiera per cui avrebbero scoperto che c'è qualcuno che fa il furbo nel risparmiare il plank, che sarebbe questa asse da stiro che è di una fibra di legno che è sotto le monoposto, che se lo consumi anche solo più di un millimetro, cioè questo è 10 mm come spessore, se alla fine gara risulta inferiore ai 9, la macchina viene squalificata. È già capitato alla Ferrari, no? Ricordo la Ferrari in Cina, no? Ma non solo lei, altri hanno, però questi sono meno famosi, gli Hülkenberg, penso che anche lui abbia avuto il problema. Qual è il problema? Che tu più sei vicino al suolo e più la macchina ha delle prestazioni. Infatti in Cina, per dire, la Ferrari sembrava andasse forte, poi sono accorti di questo consumo, no? Ti ricordi, gonfiavano le gomme, facevano di queste cose per alzare la macchina, certo, dal suolo. E allora gira una chiacchiera la settimana scorsa che dice che avrebbero scoperto che c'è qualcuno che, per evitare il consumo del plank, avrebbe utilizzato o addirittura riscaldare un pezzo di ferro che, o i bulloni che tengono, cioè praticamente invece di sfregare il plank sfregava un'altra roba. Ok. Ok. Quindi questa cosa evitava il consumo del plank e però permetteva l'aderenza. Non si sapeva esattamente, perché si parlava di più scuderie che avessero, perché diciamo che uno dei compiti delle varie scuderie a inizio campionato, di fronte a dei regolamenti che sono abbastanza ferrei, lo sport è quello di cercare di come aggirarli, no? Perché ad esempio abbiamo avuto la McLaren con l'ala flessibile, no? Che anche quella è stata notata, e gli hanno detto no, più di tanto non può essere flessibile, perché sennò diventa favorisce l'aerodinamica. E la McLaren sembra che su queste cose ci studi, no? Certo, allora credo che sia l'unica cosa che tu puoi, una volta che hai fatto la macchina, durante la stagione, se devi intervenire su qualcosa, intervieni su quelli che sono, diciamo, diciamo gli spazi grigi, bravo, gli spazi grigi del regolamento. Provi a, esatto, forzare un po' la mano, cioè non è una cosa. Sì, pare che ci sia un componente in titanio, mi sembra di aver capito, che probabilmente evita, cioè utilizzato in una certa maniera, evita il consumo del plank, dell'asse da stiro che è sotto alla monoposto. E quindi questa chiacchiera che è uscita la settimana scorsa, quindi cioè, fuori dai cioè non la settimana scorsa, quella precedente, quindi diciamo un 15-20 giorni fa, esce questa chiacchiera, voce, non è ufficiale, certo, chiaramente, certo. E non dice neanche chi ha goduto di questo vantaggio, no? Poi salta fuori che dopo questa chiacchiera, al Gran Premio di Las Vegas, dopo, due ore, vanno a misurare il plank e la McLaren viene beccata con le mani nel sacco, cioè nel senso che addirittura qui si parla di che era, quindi addirittura ci sono le misure che mi ha preparato Fioma, è uscito perché ha un impegno, che diciamo al di sotto dello spessore minimo di 9 mm, qui addirittura lato destro anteriore 8,88 e lato posteriore 8,93, quindi si è millimetri, sto parlando di millimetri, quindi si è sotto i 9 mm previsti come tolleranza dai 10 che è il plank. E quindi la domanda che qualcuno si sta facendo, e la cosa probabilmente perché ho visto anche i commentatori di Sky che fanno i loro video da indipendenti rispetto all'ufficialità di Sky, uno ha detto sì, questa chiacchiera l'ho sentita, ma noi a Sky non possiamo correre dietro, no? Ai Sky rumors. Sport, ai rumors. No? E poi comunque gli ingegneri tutti dicono che è impossibile che questa cosa possa funzionare. Però è anche vero che ci sono altri che dicono la FIA, che è la federazione, ha invitato ai giornalisti di non mettere in giro delle chiacchiere perché potrebbero compromettere la serietà di questo sport, cioè addirittura in questa maniera. Cioè. Quindi tu giornalista sei pregato, se vuoi continuare ad avere il pass, vuoi continuare a entrare, no? Las Vegas è stato uno spettacolo, cioè oltre alla corsa parliamo del contorno anche, perché qui andiamo in posti da ultramiliardari dove c'è cola grasso per tutti, no? In tutti i sensi, alberghi di alta qualità, un buon catering, buone posizioni, insomma partecipi a tutti i party, bla bla bla. Questi sono i giornalisti che partecipano e che vanno là. Vabbè, il guastafeste o forse la festa comunque è Max Verstappen. Max Verstappen è sicuramente il guastafeste, però la domanda è, questo trucchetto se veramente esiste, ha favorito la McLaren? Cioè l'hanno scoperto e quindi questa volta non l'hanno usato e hanno avuto questo consumo. Bravo. Proprio per quello, oppure è una cosa casuale. È interessante ovviamente capire da qui in avanti, perché se non lo possono più usare, infatti vedremo se le prestazioni del McLaren, quindi potrebbe essere ancora più interessante, esatto, la fine del campionato. La cosa è, come dice Fio, il nostro campione, perché a un certo punto noi dobbiamo anche sposare qualcuno, no? Perché questo quando non corre in Formula 1 va a correre con gli sport minori, cioè fra poco se non c'è un cazzo da fare va anche sui go-kart, no? Oppure va a Misano che ci sono quelle piste chiuse, tu hai presente dove vanno quei go-kart? Pensa che ha detto che vuole fare uno sport estremo alla guida di un motore e ha chiesto a Fio di affiancarlo nel taxi. sì per fare a Bologna, ha detto che io voglio provare quell'esperienza lì. Comunque cosa succede? Che squalificate le McLaren e improvvisamente la classifica piloti cosa sono? 366 punti? Abbiamo la classifica. Sia Piastri che Verstappen hanno 366 punti, mentre Norris ne ha 24 in più. 390. E quindi. E ci sono ancora due gare e una sprint. Quindi, due ore prima alla fine della gara, per Verstappen, onorato, sì, bravo, ha fatto una partenza, Norris ha fatto quella cagata in partenza di chiuderlo in maniera alla Verstappen di una volta, ma senza gli accorgimenti di Verstappen, perché poi alla fine, alla curva, è andato largo e Verstappen ha detto tranquillamente, ha frenato, no? Ha detto qua mi chiude, e poi ha detto ma vaffanculo, hai visto che ha fatto il gesto, come dire. Li ha mandati. Cioè, vuoi insegnare a me come fare, cioè, quindi si riapre il campionato. È vero che ancora in questo momento Norris sembra avere insomma un buon vantaggio, e però quindi, sono 24, però con quello che può essere appunto gli ultimi due gran premi più la sprint, la voglia di Verstappen, la capacità, è un po' uno squalo, no? Che sente l'odore del sangue, sangue inizia a essere pericoloso. Questo è un po' il finale che avrebbero sognato gli organizzatori del campionato dai tempi di Hamilton Verstappen, sempre ad Abu Dhabi. Perché io penso adesso, per quello che mi riguarda o per quelli che sono i miei ricordi, vero? Si parla di Schumacher, ma uno come Verstappen, sinceramente, perché stiamo parlando di un Schumacher che casomai andava con una Ferrari dove il secondo pilota comunque portava a casa punti, no? Qui alla Red Bull c'è solo Verstappen. Sì, la differenza col secondo. Quell'altro cosa porta a casa? Cioè, non è se ci fosse stato. Diciamo, è lui che riesce a interpretare la macchina che gli dai, anche se la macchina non ha delle qualità come potrebbe avere altre. Quindi questa cosa, ripeto, per me è sorprendente. E chapeau per Verstappen, che veramente se vince questo quinto campionato, perché sarebbe il quinto di seguito, se lo merita ampiamente, quindi sarebbe proprio completamente del pilota senza trucchi avevo barba trucchi. Esatto. E sono due weekend ravvicinati perché non ci sono pause. Cioè, no, il Qatar adesso l'altro. E il 7 dicembre Abu Dhabi. Quindi vedremo come andrà. C'è anche poco tempo per mettere a posto eventuali situazioni, nel senso che ormai le macchine sono quelle, non credo che si riesca a fare di più. E a quel punto. È chiaro se al Qatar, che in teoria è una pista, un circuito favorevole alla McLaren, tutti e due poi ho sentito dire, e la McLaren fa schifo. Sì, sì, adesso il allora, dubbio che. Diciamo, se Verstappen anche vincendo tutte e tre le gare potrebbe non diventare campione del mondo, nel senso che dipende dai risultati degli altri. Se Norris arriva sempre secondo, vince Norris il mondiale. Quindi non è. Sì. Non ha quella possibilità lì, deve avere un intoppo, un qualcosa in più, deve inserirsi qualcuno in mezzo, anche solo so, una Ferrari una volta che toglie punti a Norris però sì, Piastri sei già pari a Piastri, quindi Verstappen non fa la corsa. Oddio, su Piastri anche in McLaren adesso si dovranno mettere d'accordo che Piastri favorisca chiaramente Norris, però Piastri in teoria anche lui. Sì, benché Piastri ultimamente si è spento, era davanti, lui aveva un vantaggio importante. Anche lui comunque avrebbe l'ambizione di arrivare a vincere il mondiale piloti, quindi sì, sì, sì. Comunque niente, questo è, ricordo anche per chiudere che comunque McLaren ha vinto il titolo costruttori. Sì, sì, ampiamente. E se c'è il barbatrucco bisogna vedere. Vediamo. certo, questo è interessante. Giusto per i giochi dei numeri, la Red Bull ha 391 punti, la Red Bull in quanto Red Bull, Norris 390. Quindi comunque i punteggi male, sono molto simili. E vorrebbe insomma essere quello il finale voluto da Verstappen nel mondiale. Siccome abbiamo tirato delle volate, abbiamo parlato di Coppa Davis con un ospite settimana scorsa, ci tocca ricordare che segnalare a chi non se ne fosse accorto che l'Italia ha vinto la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. Clamorosi, cioè, un po' come Verstappen. È vero, esatto, è vero che la Coppa Davis non è più quella che conoscevamo noi all'inizio, è molto diverso il format, è diventato più spettacolare, più corto, c'è questa Final Eight nelle varie città, è capitata a Bologna, mentre una volta, non so se ricordate, la Coppa Davis una volta la giocavi una volta in casa, se riaffrontavi la stessa nazione, la volta dopo era a casa loro, si alternava nel corso delle sfide, inizialmente la storica Coppa Davis con 5 partite, quindi 4 singolari e un doppio, e i set erano 5, insomma un po' molto diverso da quello che è il format che è stato a Bologna. E poi abbiamo vinto comunque anche senza i Sinner e Musetti, cioè quindi tu hai i due più forti. È un po' come il Bologna, capito? Che va a giocare a Udine, alcuni diciamo i giocatori, quelli importanti, sono rotti, ma il Bologna vince lo stesso. È un po' così, in questo caso è la stessa roba, l'Italia riesce a vincere senza mai fare giocare il doppio, cioè noi abbiamo un doppio fortissimo. Sì, tutti i singoli. Noi non abbiamo mai... Abbiamo finito. No, abbiamo il tennis... questo cazzo di tennis, abbiamo finito. Il tennis è ormai parte di noi italiani, adesso i bambini che nascono gli regalo una racchettina, basta col calcio. Cioè è evidente, non riusciamo più a giocare a calcio, ci stiamo però facendo valere su altri sport, il tennis, la pallavolo, attività ludiche, no, non attività sport ludiche. Okay, questo è quanto. Bene Andrea, grazie per il racconto, lo scopriremo, sarà interessante lunedì prossimo vedere un po' quello che è il risultato di questa situazione. Attenzioniamo la McLaren, questo è la raccomandazione per chi è interessato all'argomento, perché esatto, frega un cazzo, rimane così. Pochi minuti ci mancano prima della termine della puntata di quest'oggi, vedo Simone che vuole dire qualcosa. Sì, si serve che qualcuno difenda sto calcio malandato, allora vi consiglio, chi può alle 2:30 ci sono i ragazzini dell'Under 17 che si giocano l'accesso alla finale del mondiale. Semifinale, dopo aver vinto col Burkina Faso. La partita bella, anche il Burkina Faso non è una brutta squadra, c'ha un paio di giocatori veramente forti. Bravo Mingo. Li ho dovuti seguire perché ormai me ne parli così tanto. Bravo Mingo. Comunque dategli un'occhiata ai ragazzi perché sono molto molto bravi. Bene. Grazie. Basket velocemente, vincono le due di Bologna, vince sia la Virtus a Cantù che la Fortitudo in casa con Forlì, in una sfida abbastanza sentita, diciamo così, e tra l'altro contemporaneamente perde anche Pesaro, clamoroso, che era in vetta alla classifica di A2, ora si accorcia la distanza anche della Fortitudo, che è nel gruppone delle seconde, proprio a un punto, a una partita, una vittoria dal primo posto, che darà la promozione diretta alla squadra che appunto riuscirà a vincere. Quindi il campionato è buono nonostante tanti infortuni, quindi questo vuole anche dire che insomma la squadra è un po' lunga, no? Un po' più lunga di quello che sembrava, se non altro. È anche vero che purtroppo si stanno stancando quelli che non sono infortunati di più del previsto. Questo ovviamente in un campionato lungo potrebbe essere un problema, però la situazione è positiva. Di là la Virtus vince a Cantù e si smezza la vetta con la Germania-Brescia. Esatto, Germania-Brescia, e potenzialmente, almeno solo a livello di vittorie e sconfitte, anche con Trapani, che senza la squalifica sarebbe lì con loro. Va bene, giusto. Vedremo nelle prossime settimane. Ci risentiamo lunedì prossimo. Ciao!